Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Come sentivate, il giorno dopo il referendum in Ucraina che ha sancito la netta vittoria dei filorussi, a Bruxelles si sono riuniti i ministri degli esteri europei che hanno varato poco fa nuove sanzioni, mentre Berlino ha già fatto sapere di non riconoscere l'esito del referendum. Allora torniamo a Bruxelles da Beda Romano. Sì, buongiorno. I ministri degli esteri dei 28 hanno preso la decisione negli ultimi minuti e hanno deciso quindi non solo di allungare la lista di persone a cui imporre il congelamento dei beni e il divieto di viaggio nell'Unione Europea, hanno anche deciso, e questa è forse la novità più importante, di sanzionare anche due imprese di Crimea che sono state espropriate o nazionalizzate negli ultimi giorni da parte delle autorità russe. È una novità perché finora le diplomazie europee avevano preferito sanzionare semplicemente individui. Con questa scelta di sanzionare persone giuridiche, quindi società, l'Europa fa un passo in avanti nelle sanzioni contro la Russia. Siamo ancora nella fase 2, in altre parole nella fase in cui l'Unione Europea sta sanzionando la Russia con delle misure mirate. Non siamo ancora nella fase 3, che è quella secondo la quale l'Unione Europea potrebbe sanzionare la Russia con sanzioni economiche di ampio respiro. E grazie a Beda Romano. E intanto sul fronte energetico, Bruxelles poco fa ha anche ufficialmente lanciato il bando per accedere alla prima tranche da 750 milioni di euro di finanziamenti per la Connecting Europe Facility, per lo sviluppo e il completamento delle grandi reti infrastrutturali energetiche. Il focus sarà su gas ed elettricità per aumentare la sicurezza delle forniture e mettere fine all'isolamento energetico di alcuni paesi europei. Le domande dovranno essere presentate entro il 19 agosto, 31 progetti sono italiani. Conto alla rovescia per il voto del 25 maggio e ovviamente la riapertura del Parlamento europeo, e allora si fa anche un bilancio su quelle che sono le eredità del precedente emiciclo. Due i binari obbligati nel passaggio di testimone al Parlamento europeo che uscirà dalle urne fra due settimane. Sono infatti due i voti avvenuti a marzo durante una delle ultime plenarie della legislatura con cui sono stati approvati i rapporti finali delle grandi inchieste condotte dagli eurodeputati tra il 2013 e il 2014. Con la prima, Strasburgo ha bocciato senza appello le misure imposte dalla Troica, Unione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale, mentre con la seconda l'Aula ha condannato con forza gli Stati Uniti per lo scandalo sullo spionaggio dell'agenzia NSA. Innanzitutto è l'austerità nel mirino del rapporto sull'Europa della Troica, risultato di un'inchiesta di 4 mesi con missioni in Grecia, Irlanda, Portogallo e Cipro. La Troica ha provocato uno tsunami sociale, aumento dei debiti pubblici, impennata della disoccupazione, fallimenti a catena delle piccole e medie imprese e migrazione forzata di centinaia di migliaia di persone. E in più ha distrutto la fiducia dei cittadini nell'Europa, perché i veri responsabili della crisi, governi nazionali e ministri delle finanze, hanno scaricato le loro colpe politiche proprio sull'Europa. Di qui la richiesta degli europarlamentari di creare invece un fondo monetario europeo gestito dalla Commissione europea. E anche l'inchiesta sul Datagate è stata chiusa con una bocciatura. Il Parlamento europeo ha chiesto al governo statunitense di fermare la NSA e i suoi programmi di sorveglianza, altrimenti l'Aula potrebbe decidere di non approvare l'accordo di libero scambio con Washington. Ora il pallino passa al nuovo Parlamento. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Per il momento ci fermiamo qui. Vi ricordo, come sempre, l'Europa vi aspetta ad effetto notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.